gli speciali di Radio Popolare. Terza puntata del questo ciclo di trasmissioni insieme ad Aldo Giannulli, partendo dal suo libro uscito un paio d'anni fa, 2012 la grande crisi, che usiamo diciamo così come guida per delineare come saranno i prossimi mesi. Buongiorno Aldo. Buongiorno. Allora, nelle prime due puntate, e lo dico in estrema sintesi, abbiamo appurato che nel triennio 2012-2014 andranno in scadenza letteralmente una valanga di titoli di Stato, ma anche azioni spazzatura, e che la ricetta fin qui seguita, quella diciamo, di immettere liquidità sul mercato per comprare nuovamente questi titoli, ha avuto finora effetti nefasti, ok? La seconda cosa che abbiamo scoperto, insomma, che abbiamo messo in rilievo, per meglio dire, e che la cosiddetta locomotiva cinese comincia a mostrare qualche problema, corre un po' di meno, diciamo così, e in prospettiva ci saranno ulteriori problemi. Soprattutto c'ha dei debiti imprevisti, che sono quelli delle amministrazioni locali. Esattamente. Oggi vorremmo affrontare un altro grande tema, un altro grande player internazionale, anzi, per essere più precisi, il principale attore, oramai così da secoli, gli Stati Uniti. Però prima di passare, diciamo così, ai prossimi mesi, dobbiamo rimanere sulla stretta cronaca, perché è notizia di qualche ora fa. Mitt Romney ha vinto la sfida interna al Partito Repubblicano nelle primarie dell'Iowa per una manciata di voti contro Rick Santorum. Aldo Giannulli, questo risultato ci dà qualche idea su come potrebbe essere la sfida con Obama? Sì, 2-0 a tavolino. Perché non si presenta la squadra avversaria in campo, cioè sono deboli i candidati. Se i candidati sono questi, vuol dire che il Partito Repubblicano si sta astenendo dalla competizione elettorale. Obama vincerà perché non c'è storia, non c'è partita. Veniamo adesso allora all'aspetto quello economico, poi dopo insieme al professor Alessandro Colombo magari parleremo anche dell'aspetto strategico, però fermiamoci per un secondo all'economia. La grande crisi di cui hai parlato nel tuo libro, che stiamo vivendo, è cominciata di fatto negli Stati Uniti, è esplosa con la bolla dei subprime, che detto in parole poverissime sono dei mutui immobiliari non garantiti. Su nulla. Questo però, tu scrivi, è un effetto della deregulation dell'epoca Reagan, in qualche modo, il frutto avvelenato della deregulation di Reagan. Allora, la risposta di Obama in questi ultimi anni è stata diversa dai suoi predecessori? Dunque, di Obama la definizione più azzeccata l'ha detta l'ex presidente Cossiga, che disse: passa per essere nero di sinistra, ma lui è centrista e caffè latte. Effettivamente sì, Obama è tendenzialmente un centrista, non è un candidato di sinistra. Ha dato la sensazione, approfittando di una straordinaria luna di miele con l'opinione pubblica, di una grande innovazione che non c'è stata. Tutte le operazioni che lui ha tentato, anche piuttosto modeste, dalla riforma sanitaria alla riforma della finanza, che non era per niente una cosa sovversiva che cambiava l'attuale assetto, era semplicemente una cosa che introduceva dei limiti, per esempio, alle azioni delle agenzie di rating, gli sono state bloccate tutte. lui non ha insistito neanche più di tanto. Nel complesso, quello che rimane della sua presidenza è il fatto che ha continuato a fare quello che ha fatto la presidenza Bush. La presidenza Bush, con il piano Samuelson, dette 700 miliardi di dollari alle banche, lui ne ha dati altri 1200 qualche mese dopo. Quello che rimane della sua presidenza è questo. Anche il tentativo tardivo che ha fatto, veramente tardivo, di finanziare nuovi investimenti, sostenere il salario, eccetera, gli è stato bloccato da un Parlamento a maggioranza repubblicana ormai, cosa che invece poteva fare quando aveva la maggioranza sia al Congresso che al Senato. Quindi quello che resta della sua presidenza è essenzialmente la continuità con la linea Bush. Una domanda adesso su che mette assieme militari ed economia, perché è notizia di ieri, secondo il New York Times, il segretario di Stato americano alla difesa, Leon Panetta, seppur a malincuore, avrebbe accettato l'ipotesi di tagli sostanziosi, centinaia di miliardi di dollari per le forze armate americane. È una scelta che secondo te cambierà il ruolo strategico statunitense? Allora, intanto non è una scelta, è una mossa obbligata, perché gli Stati Uniti hanno speso per molti anni fino al 5% del PIL per le forze armate. Teniamo conto di una cosa, che al di là della spesa diretta, che era fra il 18 e il 22% grosso modo del bilancio dello Stato, c'erano poi tutta una serie di spese che erano spalmate attraverso dei capitoli ufficialmente di natura civile, finanziamenti alla ricerca, aiuti internazionali, eccetera, ma in realtà legati a progetti militari. Quindi il risultato è che si spendeva il 35% del bilancio. Ora, questo non è materialmente più possibile, intanto perché non è più possibile fare disavanzo, e quindi in qualche modo il debito ha toccato un tetto difficilmente poi ancora superabile. In secondo luogo, perché l'opzione strategica americana qual era? Era l'idea dell'impero agli inizi del decennio scorso, era: noi spendiamo esattamente quanto spende tutto il resto del mondo messo insieme. Le spese militari nel mondo erano per il 50% americane e per il 50% tutti gli altri messi insieme. Ora, questa proporzione non è assolutamente più sostenibile, un po' perché c'è il boom delle spese militari in Asia, paesi come la Corea, la Cina, l'India, persino il Giappone, che sarebbe limitato dai trattati di pace, stanno spendendo molto. Viceversa, non solo gli Stati Uniti non riescono più a tenere il passo, ma devono per forza scendere, perché diversamente il pareggio di bilancio o comunque l'evitare ulteriore disavanzo non è possibile. Io do il benvenuto e lo ringrazio per la sua presenza al professor Alessandro Colombo. Buongiorno. Buongiorno. Alessandro Colombo insegna relazioni internazionali alla Statale di Milano, più volte viene citato appunto nel libro di Aldo Giannulli, in particolare, professor Colombo, su un tema che apparentemente sa un po' di filosofia e di teoria, perché voi, lei, Aldo Giannulli, parlate di impero in qualche modo. Leggo qui per esempio cosa dice Aldo Giannulli: nei primi anni di questo secolo il progetto imperiale americano sembra ormai avviato e irreversibile. Il nuovo ordine mondiale imperiale era quasi un dato di fatto. Ricordiamo il libro di Antonio Negri e Michael Hart, di cui appunto si riflette in tale ottica. Ma la storia spesso impone svolte impreviste. Ce ne sono state di svolte impreviste, professor Colombo, che hanno, come dire, fatto venir meno questo progetto? Sì, ce ne sono state molte, a cominciare dal fatto che il progetto non era sostenibile, l'ho appena detto Aldo Giannulli. In realtà il progetto era un progetto controverso anche all'interno degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti dall'inizio hanno temuto che una sovraesposizione di carattere quasi imperiale, in realtà gli Stati Uniti parlano di egemonia naturalmente, ma una sovraesposizione di questa natura avrebbe finito col prosciugare le risorse che sostengono la superiorità americana sia sul terreno politico che su quello economico che su quello ideologico. Si aggiunge a questo una serie infinita di errori, credo che a questo punto non ci sia più margine per discussioni su questo. Gli Stati Uniti hanno sostanzialmente dilapidato un intero decennio, questo ultimo decennio, nel progetto disastroso dal punto di vista dei risultati che ha ottenuto della guerra globale al terrore, cioè nel tentativo goffo anche dal punto di vista intellettuale di vedere tutte le aree regionali del sistema internazionale collegate in una stessa vicenda che in realtà non le collegava affatto. Per essere anche qui un filo filosofici, però noi siamo passati dal bipolarismo della guerra fredda, Stati Uniti e Unione Sovietica, per un lungo periodo ad un'unica superpotenza, cioè gli Stati Uniti, e adesso ci avviciniamo ad un mondo multipolare, cioè la crisi economica ha fatto emergere per esempio i G20. Lo stesso si può dire per la forza? Non credo, credo che questo sia uno degli elementi anzi di squilibrio dell'attuale contesto internazionale. Da un lato si è aperta, in realtà è una vecchia scissione, ma in questo momento è diventata particolarmente marcata, si è approfondita, diciamo così, la scissione tra la dimensione militare e tutte le altre dimensioni, soprattutto quella economica. Sul terreno economico il sistema internazionale è già da diversi anni un sistema fondamentalmente multipolare, sul terreno militare resta malgrado tutto un sistema rigidamente unipolare, perché la superiorità degli Stati Uniti è ancora abissale e ci vorranno molti anni, secondo gli Stati Uniti stessi alcuni decenni, perché questa superiorità possa essere colmata. L'altro dubbio è che l'eventuale declino dell'egemonia degli Stati Uniti possa produrre da un lato un sistema internazionale multipolare, cioè ancora in dimensioni globali con una serie di grandi potenze che giocano sulla scacchiera globale, ma c'è un'altra possibilità che personalmente ritengo più probabile, e cioè che il declino dell'egemonia degli Stati Uniti tenderà a spezzare ulteriormente i contesti internazionali in una serie di aree regionali sempre più separate, all'interno delle quali si svilupperanno competizioni che in realtà gli attori stanno già prevedendo, perché quello che ha detto proprio qualche minuto fa Aldo Giannulli è già un segnale. C'è una corsa al riarmo in alcune regioni, in diverse regioni, e questa corsa al riarmo è naturalmente un indicatore di aspettative negative sul futuro. Aldo Giannulli? Ovviamente sono estremamente d'accordo, c'è poco da discutere. Un'unica cosa però penso che dovremmo riflettere di più: quanto costa il semplice mantenimento dell'attuale apparato? Non c'è dubbio che gli Stati Uniti sono oggi l'unica superpotenza in grado di intervenire militarmente in ogni angolo del mondo, nessun altro ha questa possibilità. Però questo quanto costa gli Stati Uniti, e soprattutto in proiezione con i dati dell'economia americana e quindi probabilmente anche degli introiti statali attraverso il gettito fiscale, quanto sarà possibile semplicemente mantenere, ecco, qual è il costo per esempio del mantenimento di una base, di una delle 745 basi americane nel mondo o di una delle 6 flotte americane nel mondo o delle 13 portaerei? Ecco, questo per esempio è un discorso che credo vada approfondito. Che ne pensi, Alessandro? Sono d'accordo. Io credo che, per la verità, gli Stati Uniti si siano trovati dall'inizio degli anni 90 e oggi naturalmente il problema è cresciuto, è di fronte a un dilemma strategico che è anche un problema di costi. E da un lato c'è la possibilità e il rischio che accennavi tu, e cioè la possibilità di mantenere l'egemonia su scala globale con il rischio di dissanguarsi progressivamente, perché i puri e semplici costi di mantenimento di questa presenza globale sono progressivamente insostenibili. Dall'altro lato c'è però il rischio opposto, che non a caso è al centro in questo momento del dibattito politico strategico americano, e cioè ogni segnale anche minimo di taglio degli impegni da parte degli Stati Uniti crea una crisi di credibilità dell'impegno americano. La crisi di credibilità crea una corsa da parte di tutti gli attori, compresi gli alleati degli Stati Uniti, a procurarsi risorse per la difesa da sé, e questo rischia di innescare una serie di corse di sicurezza e di riarmo nelle diverse regioni. Ecco, quello che gli americani si chiedono, ma davvero dall'inizio degli anni 90, è quale sia delle due scelte, posto che tutte e due sono costose, quale sia la più costosa e la più insostenibile. Professor Colombo, la lascio con una domanda assolutamente fuori sacco che mi è venuta in mente adesso quando lei parlava del declino degli Stati Uniti, che potrebbe portare a uno spezzettamento in macro regionale, se capisco bene, di alcune potenze fortemente armate. A me sembra che in questi giorni stia aumentando la forza del Qatar. Ieri la notizia che è stata aperta nel Qatar di fatto un'ambasciata dei talebani, io lo chiamo così impropriamente, con cui cominciare le trattative appunto per una via d'uscita, una exit strategy per l'Afghanistan. Ma il Qatar è stato fondamentale nella guerra in Libia. Sì, certo. Chi comanda in Qatar? Il Qatar è sostanzialmente una grande risorsa di mediazione per gli Stati Uniti e non soltanto per gli Stati Uniti, perché da un lato è un alleato e tra l'altro un paese fortemente dipendente sul terreno della propria sicurezza naturalmente dalla garanzia americana, e dall'altro lato è, come dimostra anche questa iniziativa con i talebani, è un paese che può parlare e che parla spesso anche ai movimenti islamici radicali. Questa è per esempio una delle accuse che comunemente vengono rivolte a Jazeera. Ecco, questa sorta di natura quasi di paese ponte, da un lato alleato e dall'altro capace di parlare con l'inimico, tra virgolette, credo che stia alzando il valore diplomatico e quindi la carta negoziale del Qatar. Ovvio che dal punto di vista politico-militare gli Stati Uniti in quella regione si appoggiano ad altri, cioè si appoggiano sostanzialmente e sempre di più all'Arabia Saudita, che è rimasto l'unico alleato fidato in tutta la regione del Golfo Persico. Grazie professor Colombo, buona Grazie giornata. Grazie a voi, a presto. Le ricordo, Alessandro Colombo insegna relazioni internazionali alla Statale di Milano. Allora, se mi permette, prego. Prima di iniziare vorrei consigliare a questo proposito la lettura del libro di Alessandro Colombo, La disunità del mondo, al quale io sono debitore per quanto riguarda il mio libro sul 2012, che è una visione molto in anticipo di fenomeni che stiamo vedendo e che però dà una visione d'insieme estremamente interessante, per cui se gli ascoltatori vogliono approfondire questi temi senz'altro un'opera importante. Domani affronteremo il tema, ci siamo lasciati per ultimo, Italia e Europa, adesso poi fuori onda ci mettiamo d'accordo su come organizzarci. Invece usiamo un minuto finale non solo per invitare a continuare la discussione per chi è interessato sul sito www.aldogiannuli.it. Per un'ultima domanda, se dovessi fare una previsione su qual è un'area del mondo che in questo momento è particolarmente delicata proprio per gli equilibri che vengono imposti da queste scelte che riguardano gli Stati Uniti di cui abbiamo discusso adesso, le scelte economiche, le scelte strategiche, le scelte militari, dove consiglieresti di fermare il dito? Su quale parte del mappamondo? La linea di faglia più pericolosa per un conflitto secondo me nettamente è il confine indo-pakistano, che può chiamare immediatamente dentro lo scontro anche la Cina, alleata del Pakistan. E lì sono gli Stati Uniti tre vogliono potenze nucleari. Tutte e tre, perché stiamo parlando di India, Pakistan e Cina. Sono tutte e tre potenze nucleari, c'è una situazione di conflitto latente molto forte fra Pakistan e India, che è già sfociato per ben quattro volte in una guerra aperta e che potrebbe tranquillamente riaccendersi, perché c'è il contenzioso sul Kashmir, perché sono tutta una serie di cose. Peraltro, con la morte di Osama Bin Laden, i rapporti fra Pakistan e Stati Uniti sono deteriorati fortemente, per cui il Pakistan si sta avvicinando sempre di più alla Cina e questo automaticamente crea problemi di frizioni fra India e Cina. Fammi fare l'ingenuo, ma si stanno ritirando gli Stati Uniti da lì? Tutt'altro, credo che siano più presenti di prima. Grazie Aldo Giannuli, con te ci sentiamo domani. Se volete continuare questa discussione anche, diciamo così, online, potete andare su www.aldogiannuli.it. Gli speciali di Radio Popolare.